Mimì! Speravo di trovarvi qui! E ver siam qui da un mese, di quell'ostia le spese. Musetta insegna il canto ai passeggeri. Io pingo coi guerrieri sulla facciata. È freddo, entrate! C'è Rodolfo! Sì! Non posso entrar, nonno! Perché? Si desta, s'alza, mi cerca. Viene! E non mi veda! Or rincasate, Mimì, per carità! Non fate scene qua!